was a good solution, hanging with the raisin girls. She's gone to the other side, giving us a yo-yo. Things are getting kind of gross, and I go at sleepy time. This is not really, this is not really happening. I nomi delle cose, la trasmissione della coordinamento femminista e lesbica sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. This is not really happening. You bet your life it is. You bet your life it is. Honey, you bet your life. It's a peel out the watchword. Just peel out the watchword. Ciao a tutte e tutti. Oggi cominciamo la nostra trasmissione parlando della memoria, visto che il 27 gennaio è stato celebrato appunto il giorno della memoria, parlando a riguardo del fatto che è stato anche il giorno del Porraimos, non so bene come si pronuncia, e cioè è il giorno in cui la comunità Rom commemora i 500.000 Rom uccisi nei campi di sterminio nazisti. Proprio nello stesso giorno, qui a Roma, altri uomini in divisa hanno sgomberato l'occupazione di una struttura in disuso delle Ferrovie dello Stato a Casalbertone, occupazione appunto portata avanti da una comunità auto-organizzata di Rom, rumene e rumeni, gettando per strada uomini, donne e bambini. Noi saremo sempre al fianco di chi si auto-organizza e lotta per riprendersi una vita che valga la pena di essere vissuta, e continueremo a batterci per la chiusura di tutti i lager contemporanei, dai campi Rom, definiti ipocritamente villaggi della solidarietà, ai CIE, veri e propri campi di internamento. E proprio stamattina, cioè a soli due giorni dal giorno della memoria appunto, già siamo al secondo sgombero di una comunità Rom in emergenza abitativa. Si tratta del campo che si trova in via Lombardi Romolo, vicino alla scuola di via Ferraironi, già nota come Iqbal Masik. E ci chiediamo a questo punto che senso abbia la giornata della memoria, no? Giornata della memoria per ricordarsi di ricordare. Questo trafiletto lo prendiamo da doomlessnoblogs.org, che hanno scritto proprio pro memoria, per ricordare. Un po' come funziona per l'8 marzo, per il 25 aprile, per il 25 novembre. Noi sempre ricordiamo che al di là delle date celebrative bisogna essere antifasciste sempre, femministe sempre, antirazziste sempre, e che sempre la memoria del passato, quello peggiore, oltre che essere un omaggio alle vittime, dovrebbe essere uno strumento per rendere migliore il presente. E per questo la memoria dovrebbe essere un esercizio quotidiano, perché ogni giorno c'è chi cancella, distorce, nega il passato per far rivivere i suoi orrori nel presente. Thank you. proprio a proposito di memoria, noi abbiamo fatto un incontro memoria femminista, memoria collettiva come coordinamento su questo, proprio perché ci siamo poste il problema. Un giorno, un 25 aprile, ci si è presentato prepotente nel dibattito il problema di non fare delle ricorrenze solo momenti oleografici fine a se stessi, come vorrebbero che fossero tutti quelli a cui fa comodo relegare il passato in un momento lontano, perché di solito si fa sempre questa operazione per le cose scomode che si vogliono far diventare fiori all'occhiello, o le si relega nel passato, un passato che viene incorniciato e letto soltanto come situazione circoscritta, o in paesi lontani che non ci appartengono, quindi le situazioni scomode appartengono sempre ad altri o ad altri tempi. E a proposito di visioni altre, cioè o il passato o mondi lontani, abbiamo pensato di dedicare la prima parte di questa trasmissione a Cuba. In che modo? Una nostra compagna, una compagna della coordinamenta, ha fatto un lungo viaggio a Cuba, non il viaggio di vacanza di una settimana, un viaggio vero, cioè è stata lì a Cuba per un bel po' di tempo. E quindi abbiamo pensato che ci piacerebbe che ci raccontasse le impressioni di viaggio come compagna, come donna, come femminista, impressioni che riguardano tutto campo, non soltanto il fatto che sia un bel paese o che sia un paese altro da noi, ma proprio con un'ottica di genere e con un'attenzione ai fenomeni sociali che ci sono da quelle parti. Allora, dato che Marg, che ci dovrebbe raccontare Cuba e che sarà qui con noi fra pochissimo, è impelagata in un difficilissimo parcheggio qua sotto, per cui rischierà di metterci 10 minuti, intanto vi leggiamo un omaggio che volevamo fare oggi, perché un omaggio ad Angela Davis, perché il 20 gennaio, il 26 gennaio Angela Davis ha compiuto 70 anni. Pensiamo sia molto importante ricordare in questa occasione la sua analisi sul mondo penitenziario e sull'uso che se ne fa. La crescita della popolazione carceraria, la penalizzazione dell'immigrazione e l'espansione dei centri di detenzione per immigrati, le risorse individuate per continuare a costruire nuove carceri dove detenere un numero sempre maggiore di persone, la partecipazione del capitale privato alla costruzione e alla gestione degli istituti penitenziari danno un senso alla sua definizione di questo fenomeno come complesso carcerario industriale. Un modello che dagli USA si sta espandendo in tutto il mondo. La retorica che legittima di questo modello la proliferazione nasconde l'intento repressivo della detenzione come strumento di controllo degli emarginati e delle emarginate, degli sconfitti e delle sconfitti, dei e delle militanti e del dissenso. La scelta neoliberista di cui guida noi il PD, il PD è il più attivo assertore, produce e produrrà sempre maggiore dolore ed emarginazione. Tutti sono chiamati alle armi, media, poliziotti, magistrati, partiti, sindacati, organismi internazionali, ONG, ognuno nell'ambito del ruolo che ha nella rappresentazione teatrale. I popoli del terzo mondo sono condannati sempre di più alla disperazione e nei paesi occidentali aumentano i disoccupati e quelli che lavorano sono sempre più sfruttati e sfruttate e con meno garanzie. Di tutti gli oppressi, le più oppresse sono sempre le donne, perché a tutte le oppressioni si aggiunge quella di genere. Non perdiamo la nostra umanità, non rimaniamo indifferenti a chi non è riuscita e riuscito a salire sulla barca o a chi è stata buttata fuori. Lottiamo perché vengano abolite decine di leggi liberticide che a vario titolo negli ultimi 30 anni sono state introdotte in questo paese. Leggi che limitano la libertà personale, la legittimità dei comportamenti individuali, il diritto al dissenso e alla lotta. Aboliamo tutte le misure coercitive che tanto dolore provocano nelle carceri e nei CIE. Basta con i suicidi e con le morti sospette. E speriamo almeno che quelle anime pie che stanno zitte e non fanno niente di fronte a queste situazioni si risparmino di dire che quelli e quelle che si ribellano sono violenti e violente e passano dalla parte del torto. Una volta si diceva che per giudicare la civiltà di un paese bisognava conoscerne il sistema carcerario. Oggi è la società che dell'universo carcerario è diventata la proiezione. Auguri ad Angela Davis e buona lotta a tutte. Every day I'm psychoanalyzed for my lover, show me up and I tell him lies for my lover, everybody dies, I'm the fool, they don't get any love from you, things we won't do for love. If I had to risk my life so I could have you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, you, and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See how I'll leave with every piece of you. Margherita è arrivata non dal lungo viaggio a Cuba, ma dal traffico romano. Che ti accoglie sempre ed è un gran piacere tornare. Ritrovarsi in queste lande, bene. Puoi sapere che non sono cambiate tante cose. Ecco appunto. Beh, diciamo se non altro i ritmi di vita sicuramente. Sono sempre gli stessi. Qui sono sempre gli stessi. Qui sono sempre gli stessi, sì. Lo spaesamento, no. È molto, lo spaesamento è forte. È molto in quello, sì. Devo dire che una cosa dell'Havana che non ti manca è proprio lo smog, eh? Ah, perché ecco. Per quanto le macchine siano pochissime, purtroppo fanno tanto. Beh, sono, però, sono belle vecchiotte, diciamo. Sì. Noi avevamo preparato una serie di domande per te perché ci eravamo poste una serie di questioni, no? Per esempio, tutta una serie di questioni che riguardano il rapporto lavoro produttivo, tempo di vita, qualità della vita, socialità, senso di comunità, che è la prima cosa che ci viene in mente parlando di un paese che può essere così diverso, uno dei pochi paesi che magari si è posto, non so, il problema, sì, di essere diverso. E poi chiaramente sono ambiti che è giusto, diciamo, tenere insieme, perché non si riesce poi a parlare veramente di lavoro senza andare a parlare anche di quello che è il sistema sociale, il tessuto sociale, le reti di solidarietà che lì ancora esistono, perché appunto è un concetto, dobbiamo proprio, per riuscire a parlare di cos'è ad esempio il lavoro a Cuba, bisogna per noi occidentali fare un grosso lavoro anche di, diciamo, decolonizzazione mentale, mentale anche, no? Liberarci da alcuni concetti che per noi sono stratificati e assodati, perché viviamo in questa parte del mondo capitalista, in questo mondo capitalista. Chiaramente, cioè, queste sono mie impressioni di viaggio, sì, è stato un viaggio di un mese e mezzo, ma chiaramente mai abbastanza per comprendere a fondo una realtà, tanto più quando è così composita come Cuba, perché poi alla fine dei conti è talmente tanto, una delle cose molto potenti, che è anche una forza, no? E costituisce gran parte dell'identità cubana, è proprio quella di essere molteplice, no? È proprio una specie di puzzle che ti si compone davanti e chissà se riesci a prendere tutti i pezzi, no? Sicuramente ti perdi qualcosa. Più che altro è anche un posto dove è molto significativo l'atteggiamento con cui tu ti poni, chiaramente proprio perché è un ribaltamento valoriale pazzesco per noi. Devi proprio fare un lavoro di come un po' abbandonare, di tabula rasa, no? Perché se continui a fare sempre il paragone con quello che è la realtà occidentale, certe cose inevitabilmente le leggi al rovescio, certo. Cioè non le comprendi fino in fondo. E in qualche modo questo succede, cioè sicuramente succede anche con il lavoro. Comunque la prima impressione, proprio così per aiutarmi pure come un diario di viaggio, no? Per ripercorrere un po' quali sono le impressioni quando arrivi, è che arrivi in una città come L'Avana, che è grande, ha 2 milioni di persone ed è particolarmente, cioè è anche caotica, nel senso che tantissime persone sono per strada, no? E ci sono macchine, ci sono adesso ristoranti e tanta gente per strada, e da un po' ti rendi conto che tutta questa gente però non sta correndo da nessuna parte, cioè soprattutto le strade non sono soltanto appunto un passaggio tra casa, lavoro, supermercato, tempo di svago, no? Ma sono quelle stesse un luogo di incontro. Quindi ti rendi conto che tutte queste persone che vedi per strada stanno davanti all'uscio di casa propria, i vecchi giocano a domino, i bambini giocano ad altro, qualcuno guida un bici taxi, qualcuno ti vende la verdura, ci sono varie, diciamo, scene di vita comunitaria. Quindi effettivamente è la prima cosa. E lì per lì io sono stata colta ai primi giorni da un sentimento molto ambivalente. Da una parte mi sembrava una realtà pazzescamente diversa dalla mia, perché io non vivo in questo modo la mia città, noi non siamo, certo, più abituati. Dall'altra però c'era come una sorta di familiarità, sembrava di vivere dei racconti che già fanno fatti, parte della mia storia, no? Perché no, io sono troppo giovane per aver sperimentato una vita così comunitaria in città, però i racconti di mio padre già, senza arrivare ai miei nonni. Beh, non hanno ancora andato tanto lontano, perché quando io da ragazza abitavo a Trastevere, un palazzo non dico occupato ma gestito in maniera così molto autonoma, e c'era la portiera con la sedia fuori, con le vecchiette nel vicolo. Quindi sono situazioni che si che trovano... è sparita in pochi anni comunque questa o comunque realtà. Che ancora si trovano per esempio in alcuni paesi, no? E sì. L'area del Mediterraneo è anche molto la più simile da questo punto di vista, perché noi ce lo viviamo lo spazio, cioè le piazze ancora un po' ce le viviamo adesso, soprattutto nei certo. centri piccoli, no? Però quella è una grande città e accade anche in una grande città. Però dopo un po' di giorni mi sono resa conto che non si tratta semplicemente di un salto indietro nel tempo, ma che il problema, diciamo, cioè il problema, il tema è che è un sistema radicalmente diverso. Certo. E piano piano, no, lo scopri di che cosa è composto questo sistema produttivo diverso. Se chiedi, diciamo, ai cubani più, cioè i compagni che ho conosciuto, qualche membro del Partito Comunista, altre compagne della Federazione delle Donne, alcuni della Federazione Studentesca, se chiedi a loro come definiscono adesso il sistema cubano, ti dicono è la via cubana al socialismo, no? Perché tendono a rimarcare questo pilastro, diciamo, della certo, teoria socialista, vero, no? Per sì. cui ogni sistema produttivo deve svilupparsi a partire da quello che è il sì, terreno sì. che si ritrova, a partire dalle caratteristiche che sono il popolo e il paese che lo edifica, no? Quindi chiaramente quello che funziona a Cuba può non funzionare da altre parti, loro. Certo. E in questo hanno anche sviluppato, diciamo, una loro via, soprattutto dal momento in cui il campo socialista è caduto, no? Perché fino a che c'era l'Unione Sovietica, la politica anche economica di Cuba è stata diretta dal Comintern, quindi chiaramente di stampo produttivista e di potenza, sì, perché no? In effetti è un socialismo, chiamiamolo socialismo tra virgolette, nel senso quello dell'Unione Sovietica è comunque un capitalismo di Stato. Senza addentrarci in questi grandi temi, comunque fatto sta che finché c'era il campo socialista, come si chiama lì, vi erano per esempio l'industria del nickel, che è praticamente l'unica risorsa mineraria che hanno, ce n'erano tre, adesso è soltanto una attiva, cioè avevano più raffinerie di petrolio perché gli arrivava più petrolio, nonostante adesso gli arrivi dal Venezuela, però comunque ne consumano di meno, c'erano tante aziende collettive, c'erano dei centri di sperimentazione anche biotecnica che adesso sono chiusi, perché ovviamente riusciva insomma, grazie all'Unione Sovietica, l'Unione Sovietica sovvenzionava e dava le risorse necessarie che a un certo punto sono venute a mancare. Certo. E dal 92 in poi si apre questo periodo che per Cuba è stato particolarmente duro, molto duro, il più duro dalla rivoluzione a oggi, che è stato chiamato periodo special o opzione zero, in cui fondamentalmente non c'è stato, cioè non avevano nulla, no? C'era un razionamento addirittura anche dell'elettricità, lo avevano soltanto 3 ore al giorno, lo ricordano tutti come un periodo molto duro. Quindi questo ha portato una serie di conseguenze, alcune, no, più problematiche, altre però in realtà anche positive, perché dal momento in cui cade la dirigenza sovietica, Cuba riesce anche a trovare, diciamo, alcuni modi, no? Cioè questa, di intraprendere questa certo. via del tutto particolare, e sono emerse fuori infatti una vocazione ecologica, per cui è chiaro, Cuba ha poche risorse, è piccola, ha un'impronta ecologica che fa ridere rispetto, cioè ridicolmente più bassa di qualsiasi altro paese, certo. chiaramente. Certo. E non esiste, cioè è completamente estranea a quella filiera produttiva lineare che va dalla produzione, consumo e rifiuto. Quindi, certo. cioè, quello che per noi è un tema centrale e drammatico, la produzione dei rifiuti, per loro non esiste, cioè lì non esiste il concetto di obsolescenza programmata dei prodotti. Certo. Quindi gran parte del loro lavoro quotidiano è di manutenzione, riparazione e riutilizzo delle infrastrutture e dei prodotti che già ci sono. E questo, diciamo, è stata una possibilità. Dall'altra parte, questo periodo speciale ha aperto, ha avuto delle conseguenze anche più problematiche, che hanno portato, no, alla necessaria apertura prima verso il dollaro statunitense, che adesso è il sistema della doppia moneta, e al turismo, che adesso certo. è la prima industria di Cuba. Certo. E questo penso che sia in effetti un problema da molti punti noi, di no? vista, esatto. E poi c'è questo questa doppia moneta che penso che provochi, che cosa non di facile soluzione, intendiamo, cioè, perché sono anche i rapporti, cioè tutto questo è condizionato dai rapporti con noi, in effetti, no? Col resto del mondo, con un altro tipo di impostazione, con un'economia globalizzata che preme in un certo modo, per cui c'è questo doppio binario della moneta che io, come impressione, quando ci sono andata, proprio ho avuto l'impressione, però parlo di diversi anni fa, che fosse foriero di una possibile divisione in classe, diseguaglianza, sì. Ma infatti si vede, no? Ed è anche per questo che sono 2 anni che si pensa al progetto di unificazione, che ovviamente non è facile, non è che si cambia sistema monetario da un giorno all'altro, no? No, certo. Dicono addirittura che riusciranno a farlo nell'arco del 2014. Comunque sì, è palese che chiaramente adesso c'è una differenza tra chi lavora con il turismo e chi invece no, perché certo, con la doppia moneta chi lavora con il turista guadagna in un giorno quello che un dipendente statale di qualsiasi grado, anche un grado alto, insomma un medico, guadagna in un mese. Quindi c'è questa differenza, ed è quindi la condizione salariale è effettivamente problematica. Però comunque una cosa che proprio a me ha colpito e mi piacerebbe sottolineare è che queste disuguaglianze di classe si manifestano in un modo totalmente diverso da quello in cui esistono qui. Perché da una parte, diciamo, è il socialismo stesso che mette dei freni al profitto privato, no? E lo fa anche dal punto di vista giuridico, perché chiaramente la gran parte dei settori di mercato, produttivi e di mercato, sono regolamentati e quindi c'è un freno al profitto privato, all'arricchimento privato. Dall'altra parte c'è un fenomeno più fattivo e culturale, che non c'è una cultura appunto che spinge nel senso del classismo, per cui certo, praticamente capito. Di fatto ha poco senso, se vivi a Cuba, arricchirsi o no. Cioè l'unica cosa per cui davvero fa la differenza è poter viaggiare, perché adesso non ci sono più restrizioni burocratiche a poter, perché possono lasciare il paese e tornare quando vogliono. Diciamo l'ostacolo è di natura economica, non hanno i soldi, no, per uscire fuori dal paese, e ovviamente ci sono pure gli ostacoli degli altri paesi che non gli danno i visti perché sono possibili migranti. Sì, sono difficili rapporti. Sì, mentre adesso invece... qui di nuovo sì, sempre per continuare a parlare di lavoro e tempi di vita eccetera, mi interessava parlare con voi del concetto di lavoro in generale, no? Di quanto è radicalmente diverso là, di quanto alcuni concetti che per noi chiaramente immersi in un paese capitalista, in un sistema capitalista, ci fanno accapponare la pelle, là assumano un significato del tutto diverso. Nel senso che ci sono 2 aspetti. Uno è che chiaramente il lavoro è un pilastro fondamentale della rivoluzione cubana, no? E si può vedere anche semplicemente passeggiando per strada con le scritte, i murales di propaganda, no? Che sono in giro per le città o davanti alle aziende collettive, per cui è rimarcata la retorica che lavorare significa lavorare per la rivoluzione, no? Significa partecipare al socialismo, all'edificazione, essere un buon patriota, essere un buon socialista. Chiaramente questo per noi non ha senso, no? Cioè noi siamo certo, tutti improntati invece che a un'ottica di rifiuto del lavoro. E diciamo però è radicalmente diverso, in primis perché appunto stando in un sistema socialista che succede che il prodotto del tuo lavoro è distribuito, e non soltanto per quanto riguarda, cioè, l'orario, no? Per cui lavorano di meno e lavorano tutti, e chi non lavora, diciamo che lo fa per scelta, perché si può permettere di sostentarsi con dei beni che sono chiaramente assicurati, perché tutti sappiamo che la casa, la sanità, l'istruzione e un libretto di razionamento alimentare sono garantiti a ogni cubano, no? Quindi bisogni fondamentali, e sono anche chiaramente all'avanguardia da questo punto di vista. Quindi non soltanto per le ore di lavoro, ma anche perché il prodotto di quel lavoro viene distribuito, e quindi ha senso, diciamo, partecipare e lavorare in questo senso. Ma e non è un caso che infatti nei momenti emergenziali di difesa non si sono lasciati posti di lavoro, non è che tutti hanno preso le armi per difendere per esempio dalla baia dei Porsche, dall'attacco dell'imperialismo statunitense, cioè si rimarcava che tutti dovevano stare ai propri posti di lavoro. Dall'altra parte, e lo scarto secondo me più profondo che c'è con quello che viviamo noi, è che c'è una differenza tra il lavoro e il lavoro salariato. Lì non tutto il lavoro è il lavoro salariato, perché c'è una perché per spiegarmi parto da un motto che è molto sentito lì, è di José Martí, e dice: tutti devono sapere tutto di una cosa, quindi l'insegnante deve sapere tutto della sua materia, l'artigiano deve sapere tutto della materia che lavora, e poi tutti devono sapere un poco di tutto, per cui ognuno sa diciamo soddisfare dei suoi bisogni o risolvere dei problemi senza dover per forza andare a richiedere una prestazione esterna, e quindi contro pagamento di denaro, per cui riparare un rubinetto, un motore di una macchina, ristrutturare una casa, sono lavori che si fanno direttamente oppure con l'aiuto di vicini, amici, della comunità che ti sta intorno, perché non solo ognuno ha un altissimo grado di indipendenza verso qualcosa che potremmo definire esterno, no? Ma mette anche le sue competenze a disposizione degli altri. Questo perché non esiste quello che è nella tradizione liberale e capitalista, non esiste la divisione tra Stato e società, no? Lì c'è un'identificazione tra la comunità e lo Stato. Quindi un esempio proprio lampante di questo, e che se noi pensiamo all'Aquila ci viene da piangere, è che nel 2008 questo uragano chiamato Ike ha distrutto praticamente il 50% di Santiago di Cuba, e lì l'opera di ricostruzione non è stato uno stato esterno che mette la popolazione in attesa, la esatura e la espropria di qualsiasi ruolo nella ricostruzione delle proprie case, della propria vita, della propria città, e sovvenziona dei lavori che poi non iniziano mai. Lì lo Stato sovvenziona, dà i mezzi finanziari, e la popolazione ricostruisce da sola le proprie case, no? Cioè, certo, è parte attiva nella ricostruzione di quella città. Sì, sì, sì, è praticamente una specie di comunitarismo. È chiaro che mi rendo conto che è molto più facile in una dimensione limitata come può essere quella di Cuba, no? Rispetto a una dimensione di altro tipo. Però è anche vero che bisogna sempre fare riferimento a quelli che sono gli esempi dei paesi vicini, cioè quelli che hanno le stesse caratteristiche e la stessa storia, e che quindi sono tutti impregnati invece del tipo di economia dominante. Si vede per esempio Haiti o qualcosa, tutti i paesi l'intorno, come si gestiscono i rapporti sociali, le disuguaglianze, cioè vengono risolte in maniera completa, cioè non vengono risolte affatto. Non è un caso che quando si vuole cercare, cioè si incomincia a parlare del sistema produttivo, dei rapporti di lavoro, dei rapporti di forza economici, e si finisce subito a parlare dei rapporti sociali, no? Quindi, cioè, Lì è palese, puoi toccare con mano, che quando cambia il sistema produttivo si porta appresso anche dei nuovi rapporti sociali, ed è questo scenario, no? Cioè, è stata appunto, cioè, l'edificazione del socialismo che ha reso possibile che il lavoro di ognuno poi sia immerso in questa rete di solidarietà, che sia immerso in questi rapporti, certo, sociali. Non cambia ancora, diciamo, il concetto di lavoro, perché infatti il modello, chiamiamolo socialismo sovietico, ha sempre il lavoro come centrale, cioè la nostra elaborazione sul rifiuto del lavoro, come dicevi tu prima, che è un rifiuto proprio del concetto di, non dico di lavoro salariato come quello che hai detto tu, che magari non è sentito così, ma anche proprio il concetto di lavoro in sé. Noi tendiamo, o almeno vorremmo, che la vita fosse riappropriazione delle nostre possibilità, soddisfazione dei nostri bisogni, cioè è un passo più avanti. Però chiaramente mi rendo conto che questo è un po' come diceva Lukács, diceva che il peggior paese socialista è sempre migliore del miglior paese capitalista. Quindi ecco, è forse chiaro. Questa perché poi anche noi mettiamo a disposizione il nostro lavoro, no? Quando, cioè, i movimenti sociali mettono a disposizione competenze, si lavora, cioè i compagni lavorano, no? Perché dal fatto che certe volte ci sostituiamo a, diciamo, in servizi che mancano da parte dello Stato, no? Al fatto di voler creare degli spazi liberati in cui, cioè, si incomincia a sperimentare anche nell'oggi una vita diversa che vorremmo, cioè quello è tutto lavoro, e di certo nessuno ci paga per questo, no? E non è quello il concetto. Que vai, tristeza que vem. Sem você, meu amor, eu não sou ninguém. Dos teus, estou tão sozinha. Tenho os olhos cansados de olhar para o além. Allora, un altro ambito che volevamo indagare era il sentire politico nazionale e internazionale, cioè se parlando con la gente del posto c'è stato modo di capire che considerazione loro hanno della storia del loro paese, no? Per esempio della rivoluzione che c'è stata, oppure di chi si pone, di chi è stato leader o leader al femminile, al maschile, rivoluzionario, o del sentire che hanno adesso. Poi se c'è conoscenza, se c'è rapporto con i movimenti sociali dell'area nostra, europea, no? Si hanno un'idea di cosa sta succedendo qui da noi oltreoceano. E poi c'era un'altra parte che ci riguarda direttamente, che è l'indagine che riguarda i rapporti di genere, cioè il rapporto tra maschile e femminile all'interno della coppia, rapporti patriarcali, organizzazione familiare, sessualità. Allora adesso pensiamo al sentire politico nazionale e internazionale, e la parte che riguarda i rapporti di genere, siccome ci tocca molto da vicino e ci teniamo a farla in maniera esaustiva, la faremo la prima mezz'ora della prossima settimana, perché purtroppo il traffico oggi ci ha massacrate, siamo arrivate tutte in ritardo, e quindi è veramente un peccato che quest'ultima parte sia relegata in pochi minuti. Quindi la faremo mezz'ora la prossima volta. Intanto andiamo con la seconda, che è il sentire politico nazionale e internazionale. Ma anche quest'ambito, diciamo, avete fatto parecchie domande, per sì. Cui se posso dividerle e partire dalla considerazione che hanno, diciamo, della storia del loro paese, perché qua si apre anche qui uno scenario proprio completamente diverso a cui bisogna approcciarsi facendo delle considerazioni preliminari. La cosa che ti colpisce proprio stando un po' di tempo lì è che hai di fronte un popolo e delle persone che hanno vinto, non sono certo. Quindi che hanno un senso della storia completamente diverso da quello che ormai c'è in Occidente. Cioè lì non esiste la propaganda per cui la storia è finita, siamo arrivati al massimo, a un momento, diciamo, livello di sviluppo, e quindi da adesso in poi non abbiamo più risposte, non abbiamo più padri né madri né radici né senso storico. Lì proprio l'orizzonte storico è presente in qualsiasi discorso che fai, e la cosa incredibile è che a Cuba c'è una grande facilità di fare amicizia. Certo, sì, è vero questo. Grandissima facilità, e non sono, diciamo, certo, certe volte è semplicemente l'approccio perché tu sei il turista e te devono vendere qualcosa, oppure chiedere se ti vuoi fare una passeggiata, diciamo, interessata. Però invece la maggior parte delle volte è bello che sono proprio degli incontri reali e nascono delle amicizie. E abbiamo incontrato davvero tanti tipi di persone, dai compagni a quelli che sono i dissidenti, no? Per esempio la comunità rastafariana o i ragazzi semplicemente di strada che stanno giocando i coatti, sì. I coatti, oppure i religiosi afrocubani della Santeria. Insomma, tutte queste persone però hanno innanzitutto una cosa in comune, che anche il più critico nei confronti del sistema e del governo cubano non oppure il più aderente, entrambi gli estremi e tutti quelli che ci stanno in mezzo non sono dogmatici, non sono ideologici, sono proprio abituati all'esercizio del pensiero critico, e quindi sono estremamente dialettici, per cui si incomincia nelle discussioni, diciamo, ci sono stati dei momenti in cui ci siamo infervorati, no? Perché hanno per esempio una visione di quello che è l'Europa ancora molto edulcorata, perché molti, cioè praticamente tutti, non la possono vedere, no? Quindi immaginano questo mondo in cui noi siamo più liberi perché abbiamo le elezioni, o perché ci possiamo comprare le cose, o semplicemente perché possiamo viaggiare. Però sono tutti anche molto interessati e dei ottimi ascoltatori, per cui davvero se tu descrivi la situazione pessima in cui versa il mondo occidentale, loro ascoltano, e alla fine della discussione tu hai aperto gli occhi su un altro aspetto di Cuba, e loro davvero ti ringraziano perché gli hai fatto vedere un pezzetto in più di una cosa che non conoscono. E quindi la cosa insomma incredibile è che anche se non inizia come un discorso politico, poi va a finire in un discorso politico. Tutti i discorsi che si fanno là sono politici, cioè riguardano la vita pubblica, perché lì tutto è vita pubblica, cioè la separazione privato, cioè lì si svolge tutto in maniera comunitaria, e quindi il discorso può nascere anche da tu cosa fai la sera, cosa fa un ragazzo europeo la sera, certo. E va a finire che con qualsiasi tipo di persona si va a parlare di politica, no? Cioè di politica nel senso più, certo, largo, più largo, più alto, E essendo questo orizzonte storico sempre presente, no? Succede anche questa cosa incredibile per cui le categorie hanno di nuovo un senso, cioè si può parlare di politica, di morale, di religione, di tradizione, di cultura e comprendersi. Perché, cioè, dando alle parole il senso che dovrebbero, esatto, avere. Esatto, perché le parole hanno un senso storico. Allora, se noi quando iniziamo a parlare ci poniamo in un orizzonte storico, in un sistema di riferimento che è storicamente determinato, allora ci comprendiamo, usiamo le stesse categorie, no? Quindi siamo su due lati diversi della montagna, ma guardiamo la stessa vetta. Ed è questa la cosa incredibile, che lì la comunicazione è viva, perché se si parla di alcuni, cioè le cose hanno un nome, certo. questi nomi descrivono dei processi reali, no? Certo. E questa è la cosa proprio più, cioè, quindi dire che come hanno in considerazione la loro storia, loro la fanno ancora la storia, cioè non è qualcosa che riguarda il recupero, non hanno i problemi che abbiamo noi di appunto recupero della memoria storica che viene strumentalizzata o dimenticata, cioè lì è ancora presente. Sì, sì, no? Ignorata. E questo accade anche infatti nei loro vicini, no? In Sud America, cioè si sente proprio che sono persone che hanno un senso della storia completamente diverso, si sentono ancora protagonisti. Quindi, per esempio, adesso è anche un bellissimo momento, secondo me, per andare a Cuba, perché è un momento di cambiamento. Stanno facendo delle aperture che si possono permettere perché il Sud America sta muovendo i passi che sta muovendo, no? Certo. Il progetto bolivariano si fa avanti, hanno una, quindi insomma cominciano hanno ad avere le spalle sponde, più coperte, diciamo delle così. Sponde, no? Beh. Ma quindi, cioè, nel senso che vedi proprio che Cuba afferma, cioè la rivoluzione è stato un processo storico, no? Ha aspettato, cioè è successa nel 59 perché è stata preparata e perché è riuscita a insinuarsi in quell'apertura della storia, a determinare quel cambiamento, e adesso sta cercando di non farsi travolgere, no? Dal divenire, che è l'unica cosa certa cioè che il tempo passa e le ricette del 59 non vanno più bene, però proprio con questi cambiamenti che sta facendo, proprio perché io non ho sentito la paura che quando morirà Fidel Castro qua l'America vincerà su Cuba, assolutamente no, non c'è questo senso. Io non ho sentito questa paura, sono tutti desiderosi di cambiamento senza perdere la propria identità, no? E quindi, cioè, mi ha dato, ho visto cosa che non avevo mai visto, cioè afferma proprio la necessità e la capacità di istituire, la possibilità di istituire, più che altro dell'atto di istituire, cioè che è ancora possibile. Che esistono delle istituzioni che possono resistere al tempo se si sanno adattare. Bene, è una bellissima chiacchierata che però continueremo la prossima volta. Mi raccomando, la mezz'ora della prossima settimana parleremo delle cose che ci riguardano ancora più da vicino, cioè rapporti maschile e femminile, patriarcato, sessualità, rapporti di genere. Quiero verte moviendo la cadera un tanto así. Something just ain't right. come tutti gli ultimi mercoledì del mese, c'è la rubrica Quelle che non hanno il genere ma hanno la classe di Dennis, che ci ha mandato un bellissimo contributo che si intitola Te la farò pagare, le classi sociali nell'esperienza trans e autonomia dei corpi. Quando ho fatto coming out ai miei genitori, rivelando il rapporto un tantinello apocalitticamente e insanabilmente conflittuale tra la mia identità di genere e il mio corpo sessuato, la risposta non è stata delle migliori. La cosa curiosa è che la prima frase che è uscita dalla loro bocca non è stata quella che mi aspettavo. Come ce lo permettiamo? Le fragilissime accuse di essere contro natura e voler sfuggire all'omosessualità sono arrivate dopo e sono crollate miseramente, perché fin dal principio erano soltanto puntelli per distogliere l'attenzione dal problema principale, la mancanza di soldi. Non a caso, una volta stati dalla psicologa, hanno capito benissimo che non intendevo o intendo, visto che questo per me è ancora presente, fuggire proprio da nulla, se non da una sofferenza che con le persone che amo e o faccio sesso non ha nulla a che vedere. Accusare tuo figlio di voler fare il finto etero è abbastanza ridicolo, se tuo figlio è la stessa persona che spiattella in giro la sua bisessualità come se non ci fosse un domani. E soprattutto è un'argomentazione potenzialmente valida solo per una persona trans attratta esclusivamente da generi diversi da quello a cui si sente appartenere e al quale pertanto appartiene, categoria della quale indubbiamente non faccio parte. Il denaro è parte integrante della vita in questa società. Basta pensare al conto in banca, all'avere un lavoro, acquistare prodotti e via dicendo. Il proprio contributo alla società è misurato esclusivamente in termini economici e questo stabilisce quando si è degni di esistere. Quel mucchio di gente che si trova ad essere forza lavoro in questo mondo ha dignità d'esistenza solo perché produce il plusvalore che i capi padroni estraggono e di cui campano come parassiti. E ci riescono perfettamente. Il miglior parassita è quello che non si palesa, continuando a parassitare l'organismo in cui si trova. E infatti le colpe della società classista finiscono per essere patrimonio degli immigrati e degli altri soggetti sfruttati e oppressi. Tra la contraddizione capitale-lavoro e l'esperienza transessuale e transgender c'è un legame fortissimo, anche se non troppo evidente più, proprio per la certosina opera di invisibilizzazione che si compie ai danni delle istanze che una volta messe sul tavolo pongono domande scomode e sfuggono al destino assimilazionista, eterocisnormativo e normalizzatore dell'attuale politica gay e lesbica mainstream. È un legame che si palesa in tanti aspetti. Una persona transessuale e transgender in una condizione economica privilegiata può sopperire più facilmente ai costi notevoli della transizione e compierla nei tempi che desidera, possibilmente molto rapidi, sperimentando per molto meno tempo l'incongruenza tra i propri documenti e la propria presentazione di genere. Può permettersi di transizionare nonostante la privatizzazione della sanità e i limiti della stessa. Può permettersi di fare percorsi di studio che gli o le consentono di avere i requisiti necessari per rientrare nelle politiche di diversity management e quindi lavorare, potendo quindi fare affidamento in futuro sul reddito che percepirà. Può sfuggire più facilmente alla casta dei gatekeepers, coloro che impongono rigide norme riguardo chi può o non può transizionare, norme che si possono tenere a bada avendo soldi per poter pagare specialisti privati o viaggiare per raggiungerli, norme che le persone trans appartenenti al proletariato e al sottoproletariato hanno dovuto sapientemente aggirare e devono continuare a farlo ove necessario tramite l'adozione di tecniche quali le trans narratives, cioè le narrazioni standardizzate preconfezionate sulla propria storia, la propria infanzia e via dicendo, su misura per psicologi e psichiatri, allo scopo di poter passare tra le maglie di un sistema eteronormativo e cisnormativo. In minor misura in Italia, ma discretamente presente altrove, vi sono altre pratiche come l'autosomministrazione di ormoni che sono parte di transiti aventi luogo al di fuori del percorso di transizione ufficiale. Il bypassamento dei gatekeepers risulta essere un fenomeno interessante in termini storici di resistenza trans al dominio cissessista. Ma a parte questo, il gatekeeping presenta somiglianze con quanto si verifica per contraccezione, protezione delle malattie sessualmente trasmissibili e aborto. Si negano servizi di sanità pubblica non alle donne in genere, ma esplicitamente alle donne cislavoratrici, precarie e migranti. Non si tolgono i diritti a tutte quante, ma si rendono i diritti riproduttivi esclusivamente a portata delle donne cis, bianche e borghesi, le quali avrebbero comunque modo di accedervi. Sono entrambe parti, infatti, di un disegno più ampio, quello neoliberista. Non è un caso che la regressione dei vari diritti ci sia proprio in fase di austerity. Le politiche di austerità rappresentano la scusa per acuire con le politiche economiche terribilmente antiproletarie la differenza tra ricchi e poveri, per asservire